X24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Professor Giuseppe De Rita, 82 anni, romano, 8 figli, 14 nipoti, fondatore e presidente del Censis, da 50 anni l'istituto di ricerca più attento alla trasformazione dell'Italia. Della sua creatura dice: non abbiamo nessun contributo pubblico e nessun potere finanziario alle spalle. In questi 50 anni il Censis ha vissuto grazie alle 2500 ricerche realizzate per 1000 committenti diversi. Il Censis è piccolo, privato e vive solo di mercato. Ecco, professor De Rita, è l'unico modo per pagarvi la libertà di studiare come volete? Assolutamente sì. Ecco, ma le è mai capitato di rifiutare una ricerca perché è già orientata dal committente in partenza? Una volta sola, ma in genere nessuno viene a chiedere una ricerca. Vi conoscono. Dicendo fate o scrivete questo. Senta, una volta è successo. Ma... Vabbè. Senta, professor De Rita, nel rapporto di quest'anno avete scritto che siamo diventati un paese sciapo perché abbiamo perso il furore del sale, cioè? Dicevano gli alchimisti medievali che gli elementi cambiano nel crogiolo dell'alchimista se c'è il fervore del sale, cioè se c'è qualcosa che rende sapido, saporoso il vivere. E noi abbiamo perso quello. Noi abbiamo perso il gusto di vivere, il gusto di crescere, il gusto di arricchire, se vogliamo, il gusto di vincere. Ecco, ma quando, secondo lei, riesce a datarlo, quel momento? O è un processo? Da un punto di vista della datazione rischio di essere troppo fazioso. Ma grosso modo? L'inizio della Seconda Repubblica, 92-93. Ecco, ma l'importante... Perché c'è stata la delega, un popolo che cresceva tutto insieme, a un certo punto ha delegato ad alcune categorie, i giudici, i politici, la crescita, e si è deresponsabilizzato dei destini collettivi. Ecco, quindi, professor De Rita, l'impossibilità di ricambio del potere, però, a causa della guerra fredda, diciamo, può essere stato anche il tappo che ha fatto avvitare il paese su se stesso? Se uno pensa alla Prima Repubblica, pensa che sia stata tutta nella costellazione della guerra fredda, della contrapposizione ideologica. Nei fatti, in Prima Repubblica c'era un conflitto diffuso, un conflitto di classe, un conflitto forte, contadino, sì. Un conflitto operaio, un conflitto di collateralismo categoriale e corporativo che ha creato grande vitalità. Senta, ma però l'impossibilità di ricambio ha anche voluto dire in qualche modo senso di impunità e quindi corruzione più facile. Ma la corruzione c'è stata in Prima e in Seconda Repubblica, non è nella storia dell'umanità. Che nella Prima Repubblica non ci fosse ricambio è tutto da vedere, perché in fondo se io penso... Era all'interno di un sistema bloccato, però. Sì, però se io penso all'interno delle forze politiche, le due o tre generazioni di comunisti, quattro generazioni democristiani, le due o tre generazioni si sono succedute, si sono stati. Certo. Dal 93 in poi no. Non è più capitato. Quelli che c'erano nel 93 sono rimaste. Ecco, ma Tangentopoli, con la sua verità e anche con la sua retorica, può essere considerata un punto di svolta negativo? Negativo non lo so, certamente ha portato due aspetti. La prima è una deresponsabilizzazione, un affidamento... No, dicevo per la ragione che ha detto lei, appunto, sempre gli stessi poi dopo. Sempre gli stessi, perché in fondo Tangentopoli ha rappresentato un meccanismo di moralismo, un passaggio di una società dal vivere normalmente al vivere giudicando, indignandosi, andando in piazza, ecco, indignati, eccetera, che alla fine è stato deresponsabilizzato. Ecco, ma ieri come oggi la responsabilità dell'informazione in questo processo, nell'accentuare le spinte populiste e estremiste, è stata forte? È stata forte perché l'informazione vive di eventi. E naturalmente chi fornisce eventi vince. E siccome in questi ultimi anni la magistratura ha fornito eventi, la politica personalizzata di vertice ha fornito eventi, la realtà internazionale ha fornito eventi, alla fine questa massa di eventi ha fatto sì che l'opinione pubblica sia stata condizionata da dei media che non avevano più il rapporto con la realtà ma con l'evento. L'evento, ecco. Ma il consociativismo, professor De Rita, per lei è stato più motore o più freno allo sviluppo? Un po' l'ha detto, in qualche modo lei lo considera un motore? Ma il consociativismo, se è puramente politico, credo che tutto sommato sia stato un attrito, un freno. Se però pensiamo al consociativismo in termini più generali, per esempio il rapporto fra politica e categorie collaterali, con gli artigiani, certo, i commercianti, gli industriali, eccetera, bisogna dire che quella logica lì che chiamiamo concertazione, con una parola ormai schifata, certo, ma insomma, però per molti anni ha funzionato. Senta, però lei crede che adesso il bipolarismo secco che può uscire dall'accordo Renzi-Berlusconi può essere un elemento di dinamica e di chiarezza per il paese? Io sono sempre stato incerto sul bipolarismo perché la società italiana è così complessa che ha bisogno di un po' di mediazione, ha bisogno di una certa lentezza nell'evoluzione. Però c'è anche bisogno di velocità adesso, no? Forse, però... Poi c'è bisogno di superare la faziosità della politica italiana. Veniamo da vent'anni di bipolarismo, nessuno lo dice, dice ci vuole il bipolarismo, ma... Ma quello vero... Che abbiamo vissuto? Uno vince e comanda, non è condizionato dai piccoli. Dai piccoli? Berlusconi non è stato condizionato dai piccoli, ha avuto la sua maggioranza. Prodi la prima volta c'aveva Bertinotti, la seconda volta, però la verità è che le vittorie erano state abbastanza nette. Lei dice che non se ne può più però della faziosità. Non pensa che legittimare l'avversario, che non è più un nemico ma è solo un avversario, sia un passo avanti? Certo, è forse l'aspetto positivo di questi giorni. Il nemico non è più quello da... additare all'udibrio, ma è uno con è un avversario. Un avversario con cui mettersi anche d'accordo nel limite di questo. Come in questo caso? In questo caso non è mettersi d'accordo per governare insieme, per poter governare chi diciamoci vince. La verità, non ne potevamo più, però di questa demonizzazione dell'avversario. Esattamente. Ecco, ma perché la violenza dell'urlo ha ancora tanto seguito, secondo lei? Perché si urla quando non si è ascoltati. Se non si è ascoltati, magari perché si ha poco da dire, allora dice, ma la ridico. Non mi hanno sentito, ma io la ridico. E poi dopo che l'hai ridetta e non ti hanno sentito, dice, ma allora la dico più forte. E alla fine urli. Ti insulto, ecco, però il contenuto è sempre quello di quando non ti hanno ascoltato la prima volta. Senta, ma nei talk show, per esempio, i talk show hanno una responsabilità di implementazione di questo meccanismo? Io confesso che non ho mai partecipato a un talk show e non ho mai assistito a uno. Quindi lo pensa. Senta, ma parlando di novità, 5 Stelle, per esempio, l'hanno delusa oppure no? Mi hanno deluso perché li ho seguiti molto all'inizio della loro avventura parlamentare e c'era in loro una sorta di ingenuità duretta in cui dice siamo qui per controllare, vogliamo vedere i conti, vogliamo la trasparenza delle decisioni. Si è persa quella positività, secondo lei? Perché alla fine quella idea noi vogliamo la trasparenza li ha fatto pensare a se stessi di essere migliori di altri sono diventati un po' arroganti. Senta, l'arroganza poi alla fine non aiuta. Senta, professor De Rita, adesso anche Carlo De Benedetti proprio ieri dice bene Renzi e Berlusconi. È abbastanza sorprendente, no? Ma no? Tanto non è un mistero da tenere. L'altro giorno ho visto Carlo De Benedetti e mi ha detto forse aveva ragione lei sulla piccola impresa. Noi avevamo avuto anni di polemica perché lui dice io ero l'inventore della piccola impresa, no, ero solo il registratore delle di una cosa che capitava. E l'altro giorno mi ha detto forse ha ragione lei, si vede che sta in revisione profonda. Sta in revisione profonda, sì. Dice adesso, ha detto proprio a noi, che forse l'IRI, forse un po' di industria pubblica, non era da buttare. Quindi, insomma, senta, comunque adesso al potere oggi c'è un nuovo ceto politico, giovane, Letta, Renzi, Alfano, Salvini, eccetera. Ecco, possono riaprire loro quei canali ostruiti, come li chiama lei, verso il futuro? Devono forse, più che altro? Devono, bisogna vedere se ne sono capaci, nel senso che la politica ha le sue regole, E non è detto che fra queste regole ci sia quella di liberare i canali ostruiti. Molto spesso la politica è compromessa. Può darsi che gli attuali quarantenni fra 3 o 4 anni si debbano mettere a fare mediazioni su mediazione. Ma scusi, dal suo punto di osservazione, chi è il più dotato di strumenti per farlo? Per aprire questi canali ostruiti? Perché è necessario comunque. Ma il mio punto di vista è un punto di vista sbagliato, particolare. Io sono uno che fa ricerca. Ma ce l'ha un'idea? Lavora sul piano intellettuale, lavora sul piano della dei piani. Si comprometta un po'. No, ma lo dico, secondo me è Letta. Ma perché ha una conoscenza di alcuni campi tecnici che sono i miei. Sì. Quindi più di Renzi, secondo lei. Renzi ha probabilmente, rispetto a me, una maggiore aderenza alla mia cultura del conflitto. Io farei conflitto sempre. E in questo sì, ma nel fatto di dire... Insomma, lei la mediazione finale l'affascina. Pensa che è necessaria. Sì. No, può darsi pure che Renzi oggi, che parte da una logica di continua discontinuità, poi si faccia la sua attrezzatura. Quando tocca lui cambia. Oggi Letta è ancora l'erede di Andreatta, l'erede di Andreotti, di Andreatta. Di Cipolletta. È uno che ha lavorato su fatti tecnici che né Alfano né Renzi hanno avuto. Senta, però io sono uno di quel mondo. Va bene, ok, coerenza. Senta, lei dice spesso che sull'analisi dell'Italia si concede un po' di cinismo dei vecchi. Ecco, in che cosa è utile il cinismo dei vecchi? Il cinismo dei vecchi è, diciamo così, la sensazione che il tempo regola tutto. Che non c'è un problema di affannarsi a far presto. E naturalmente quando arrivano le cose che tendono a far presto, il cinismo dei vecchi dice: guarda, vai, vediamo. Senta, lei ha 8 figli, 14 nipoti. L'ho sentita dire che il figlio che si è realizzato di più è quello che ha studiato di meno. È una provocazione o è vero? No, è vero. Mio figlio Lorenzo, il mio 5° figlio, che a 18 anni non è andato all'università, è entrato in una società, in una compagnia. Insomma, ha realizzato di pubblicità, la sua vocazione. È diventato un pubblicitario, via via ha fatto i suoi passi, è arrivato alle tre palme d'oro a Cannes. Fantastico. E quindi è meglio seguire... Tutti gli altri sono laureati, hanno il loro mestiere, ma non hanno avuto questa... Ma perché aveva una vocazione speciale? La vocazione, che ho sempre detto ai miei figli. Ragazzi, per voi è importante la vocazione, perché se non c'hai vocazione... Poi tutti i titoli di studio, poi tutti i master, ma nei miei figli abbiamo tentato di instillare questo bisogno di vocazione. Ecco, professore, noi stiamo raccontando in trasmissione delle storie di ragazzi in fuga dall'Italia. Non solo cervelli in fuga, anche braccia in fuga, che fuori sono disposti a fare qualunque cosa, lavapiatti. In Italia no. È colpa delle famiglie troppo protettive, anche? Certamente sì. La famiglia italiana è un grande soggetto. Insomma, quindi le famiglie sono anche loro che creano un po' i bamboccioni? Sì, però diciamoci la verità, la famiglia italiana viene da 2 secoli di povertà, che oggi la famiglia voglia il figlio in casa, abbia dei soldi per tenerlo su, gli faccia fare la laurea, vada alla cerimonia della laurea con i fiori, il fotografo, e dà un senso di status. Lei dice è vero, ma li capisco. Insomma, professor De Rita, ieri una bella notizia c'era: tra 400 eccellenze mondiali della medicina, 6 sono italiane. È un segno di speranza. Sì. Sì. Tra l'altro il sistema sanitario italiano non è dei peggiori. Anche nel manifatturiero italiano ci sono segni di eccellenza. Cresce del 4% all'anno nell'export. È la nostra vocazione quella? È la nostra vocazione, ma è una vocazione antica. Sì. Noi siamo sempre stati un paese manifatturiero. Adesso a quello si aggiunge 2 cose. La prima, molta attenzione all'agroalimentare, che non è del tutto manifatturiero, la seconda le filiere di imprese, i contratti di rete che in qualche modo danno un senso non di pura impresa, ma di un insieme di imprese che vanno dentro un circuito di mercato nuovo. Si aspetta molto dall'Expo 2015? Parla di agroalimentare? Ci sto lavorando anch'io e penso che ci sia da aspettare molto, però bisogna farlo bene, non è una pura esposizione. No. Ecco, la Fiat di Marchionne, che smette di essere sovvenzionata come è stata per molto tempo, compra la Chrysler, diventa il settimo gruppo mondiale dell'auto, è una speranza che prende corpo o è solo un'operazione finanziaria? Beh, se fossi uno di loro è una speranza, anche io devo considerarla una speranza. Siccome i giornali di ieri e i giornali di oggi sono pieni di questo argomento, è difficile ancora farsi un'idea, però almeno la speranza diamocela. A Davos, nell'incontro dei super ricchi della settimana scorsa, anche la turbofinanza speculativa che ha dominato in questi anni sembra un po' perdere di appeal. Lei ci crede? Io credo che la finanza internazionale riguardi, venga, può essere capita da una frase del presidente di una delle grandi banche d'affari, di cui non dico il nome, che diceva: noi siamo come Dio, Dio gestisce le costellazioni delle stelle, noi gestiamo la costellazione finanziaria. Ecco, la grande finanza continuerà a gestire la costellazione finanziaria. Senta, professore, lei dice che siamo un popolo forte ma che guardiamo troppo al presente. Voi in 50 anni di ricerche avete raccontato l'Italia che cambia, invece. Ma la politica vi ha capito? Direi di sì, fino a un certo punto. Fino a che punto? Chi vi ha capito di più? Ma se dico, per farmi capire agli ascoltatori, quello che ci ha capito di più probabilmente è stato Bettino Craxi fra il 78 e l'85. Il mio rapporto personale dell'azienda con Ciriaco Di Mita è durato tutta prima e dopo la sua segreteria. I miei rapporti personali, umani, anche culturali, dialettici, con Gerardo Chiaromonte in parte, quindi con PC, con Giorgio Napolitano, sono noti, insomma, anche documentabili. Vabbè, quindi dopo, Seconda Repubblica no. Ecco, professor De Rita, lei dice che l'Italia sopravvive perché ha uno scheletro contadino, cioè una voglia diffusa di artigianato anche digitale, cioè? Beh, due parole: nello scheletro contadino c'è quel tipo di sobrietà che oggi stiamo coltivando, i consumi un po' obbligatoriamente. E quello è un modo di fare. E nell'artigianato c'è questo fatto che ritorna un artigianato, ma non per fare l'intarsio in legno, ma per lavorare sul digitale. Ecco. Sono decine di centinaia di ragazzi che vendono prodotti digitali, gli artigiani digitali. Lei dice scheletro contadino, però solo il 10% degli imprenditori agricoli ha meno di 40 anni, allora uno scheletro però senza più sangue né muscoli. Sì, però il processo è verso un ritorno al lavoro della terra. Sta capitando, ecco. Non bisogna prendere i dati così come mai processi. Come processi, certo. Senta, però chi sembra farcela in Europa, anche in parte in Italia, viene da fuori. 72 milioni di persone in Europa nel 2013. È quello il futuro? Assolutamente sì. Ecco. Specialmente noi italiani, che dopo di me non fanno più figli. Cioè, io ne ho un fratello che ne ha 8 anche lui. Lo so. Senta, in Italia le aziende però gestite da stranieri negli ultimi 4 anni sono aumentate del 14%, quelle italiane diminuite del 4%. Quindi il nuovo miracolo può venire solo di lì. È perché il miracolo lo fanno quelli che hanno fame. Certo. Noi ce l'avevamo negli anni 60, 70. Adesso 80. Un po' torna però. Sì, può darsi però che si riparta. Ma la fame di ritorno non è così. È diversa, è una fame piena di rabbia. Senta, professore, ma tra chi va e gli emergenti che si sviluppano, chi va via, dicevo, a tassi, l'abbiamo detto, da miracolo economico, si può dire che c'è un'Italia che cresce altrove, professor De Rita? Assolutamente sì. Noi abbiamo una cultura antica dell'essere altrove. Forse si ricorderà, per 10 anni abbiamo fatto a Venezia un Venezia altrove, che era un almanacco annuale in cui si dimostrava quanta roba di Venezia stava in giro per il mondo. È più roba fuori che dentro. L'Italia d'oggi è un po' così, e quindi non ci sono quadri e stampe in giro per il mondo, ci sono tanti italiani in giro per il mondo che fanno un'Italia altrove, che è molto più dinamica, dove c'è fervore, c'ha quella fame, anche che fame, dice lei, fame di crescita, fame di successo, che noi che stiamo, ecco, ma come si fa a farla diventare Italia anche qui, quell'Italia altrove? Bisogna aspettare che si impasti, perché adesso sembra che siano i figli che se ne sono andati ad Exeter a studiare e quindi si sono staccati. Via via, l'abbiamo visto specialmente con quelli che sono andati fuori 10-15 anni fa, alla fine non ritornano, si impastano, fanno famiglia, ritornano nell'alveo familiare, si sentono italiani comunque, non è un altrove definitivo, è un'Italia altrove. È un'Italia altrove. Ecco, professore, professor De Rita, le faccio un'ultima domanda. Per avere un futuro qui da noi, bisogna chiudere con il passato in tutti i settori? No. Noi siamo sempre stati considerati, noi Censis, ma io in particolare, che il processo di sviluppo viene è una lunga catena, c'è una catena, diceva Teilhard de Chardin, dell'eredità degli avi, poi arriva il tuo sforzo presente, poi c'è il sorriso dei figli e dei nipoti. Se non hai questo senso della catena temporale e tendi a spezzarlo dicendo no al futuro o no al passato, sbagli. Mix 24. L'acqua scende e bagna tutti, siano belli, siano brutti, siano grandi o pur piccini, metà prezzo ai militari. Con l'acqua che scende, che scroscia e che va, Pierino in angoscia e calosce non ha. È arrivata la bufera, è arrivato il temporale, chi sta bene, chi sta male e chi sta come gli pare. Pietrangelo, oggi mi sembra proprio, è la giornata adatta, e già Mario potrebbe farci il racconto riguardo alla pioggia. E qui miracolosamente frascico a piedi sotto la pioggia di corsa. Questa canzone è anche una bella colonna sonora su quello che è accaduto in Parlamento, altro che bufera. Bellissima la scena raccontata da Mattia Feltri oggi sulla Stampa, dove c'è la commessa di Montecitorio che non ne può più e dice ai deputati: andate a lavorare. Nel frattempo che si spartiscono pizzichi e mozzichi. A proposito di questo Parlamento, soldi. Avere tanti soldi che gioia. Prima che tu chiami le bolle, faccio una bolla extraordinaria, nel senso che non è nel nostro menù della giornata, ma la riprendo. Sì, perché ieri la Banca d'Italia ha lasciato strascichi. Sì, ha lasciato Vorremmo strascichi. Vorremmo saperla meglio. Allora, la Banca d'Italia lascia strascichi in Parlamento, c'è un modo di interpretare la faccenda che nasconde in realtà una profonda non conoscenza del problema. Allora, questo Parlamento, voi vi immaginate questo Parlamento che si scazzotta, che fa la gazzetta, che non riesce a votare un provvedimento serio se non fa la rivolta e così via. Questo Parlamento rischiava di mettere le mani su Banca Italia se non fosse stata fatta una riforma approvata per decreto e un nuovo statuto, perché una norma del 2005 prevedeva addirittura la possibilità, mai attuata per fortuna, ma la minaccia c'è sempre, che il capitale di Banca Italia diventasse pubblico. Quindi, primo punto, la riforma ha evitato questo tipo di scalata politica a via nazionale, che deve rimanere indipendente e autonoma, perché è una delle poche cose che ci sono ancora in Italia che, grazie a Dio, funzionano. Dopodiché la cosa divertente è che tutti dicono: ah, è stata privatizzata. Bugia, clamorosa bugia. Il capitale di Banca Italia è da sempre privato, dal 1936 per l'esattezza. Quindi non fatevi abbindolare da questa cosa qua. Ma era un chiarimento questo in importante, perché abbiamo avuto molte esatto. telefonate. Poi c'è un'altra cosa, attenzione, e chiudo, ma potrei andare avanti per ore. Ore no. Vi dico solo questo, che il capitale sociale della banca era fissato sull'ora di 77 anni fa, cioè era ancora quello del 1936. Vi rendete conto? Cioè 156.000 euro. Sapete quanto è, a quanto ammontano le riserve di Banca Italia, che è la banca più patrimonializzata d'Europa? Quanto? 23 miliardi. Ma di che cosa stiamo parlando? Va bene, ok. E l'hai spiegato. Oh. Bolle! Una settimana fa c'è stato l'accordo storico. Oh, bene, finalmente un risultato. È dal 2005 che aspettiamo. E ora finalmente sono tutti compatti. Al momento la situazione è questa. Il Movimento 5 Stelle vuole il proporzionale. Il nuovo centrodestra vuole le preferenze. Scelta Civica vuole abbassare lo sbarramento. Maroni e Salvini vogliono il salvalega. Il PD vuole alzare la soglia per il premio e Forza Italia vuole abbassarla. Sintonia totale. Oddio, sintonia totale, vabbè, più o meno. Giova, Pietrangelo. No, Giova, no, io Giova. Sono Giovanni, Giova è un altro. Sta a Ballarò, Giova, bravissimo, aspetta, ma io faccio, non c'entro. Faccio crozza. Giova. Senti, no, vabbè, stamattina c'è un primo passaggio parlamentare. Si votano le pregiudiziali di costituzionalità presentate da chi si oppone all'intesa Renzi-Berlusconi. Vedremo come andrà. Secondo voi come va? Va? Che non dice? Lo sai tu? No, io dico che va bene, va io bene. Dico dipende che la legge dal si bivacco farà. Se sarà di Manipoli o di Grilli e PD. Io penso che la legge si farà. Ma vediamo, sì. Sono penso convinto, sì. Mi comprometto. Vabbè, Shakespeare. C'è del marcio in Danimarca! Ma in realtà era, mi sa che è, il principe? Era lui? Il principe. Era il principe, basta. Ed essendo il principe, perché la Danimarca? Perché c'è una mezza, anzi mezza, proprio una crisi di governo, perché il primo ministro, la signora Thorning Schmidt, molto bella, quella che è piaciuta tanto a Obama in Sudafrica e ha fatto infuriare Michel con il famoso selfie, cioè l'autoscatto, ha deciso di vendere contro tutti i sondaggi una società Dong Energy. C'è di mezzo Goldman Sachs, sei ministri hanno dato fuori di matto, pare che lei debba rifare il governo. Vediamo se ci riesce, non lo so, però è interessante come caso. 86 carati. Dove? A Londra. A Londra. A Londra. A Londra. Sì, a Londra. Sapete? Tè, nebbia, Big Ben, cibo di merda, tempo peggio, Mary scassapalle, Poppins, Londra. Snatch. Londra. Londra perché? Avete casa a Londra? No? No. No, solo al paese. Solo al paese. Qual è il tuo paese? Ne ho due. Come sempre sei bilocato tu. Vabbè. Il bilocato buttafuoco non ha casa a Londra. Io non me la posso permettere. Ogni tanto ci vado. Minoli pure ogni tanto ci va. Niente casa a Londra. Mi ospita la Tardelli ogni tanto. Che ha casa a Londra. Beata lei, è ricchissima. Allora, tutti a Londra. Perché? Perché c'è il record assoluto di acquisti di nuove case. Pensa Giovanni, in un anno le registrazioni sono cresciute del 60%. E come mai tira così tanto il mercato a Londra? Londra, nella cara vecchia Europa, insieme a Berlino, ma molto di più Londra per ragioni di alta finanza, oggi, oggi è il centro di della tutto, finanza, della creatività, dell'high tech, di un sacco di cose. Salamini. Nel frattempo che il ministro Saccomanni dichiara si sta chiudendo il cerchio sui paradisi fiscali, l'accordo fra Italia e Svizzera può essere raggiunto, succede che una docufiction, si dice così, un docufilm trasmesso dalla televisione svizzera ha fatto impazzire di gioia i lombardi. Perché si è immaginato che ci fosse realmente la definitiva unificazione tra la Lombardia e la Confederazione Elvetica. E non ti dico i lombardi com'erano entusiasti all'idea. Oggi sul Corriere della Sera viene raccontato, c'è stato il picco degli ascolti e sotto sotto rivela un desiderio. Io l'ho sempre pensato per fatti miei, che quanto bene fece Radeschi ai lombardi, mai nessuno più, e quindi vorrei che dedicare agli ascoltatori una canzone che spiega e svela Milano ancor meglio di quello che poteva essere nei sogni futuristi, la caffeina d'Europa. Prego. Tra Milano S-T-R-A-M-I-L-A-N-O. Piano, piano, Monte Merlo confondi col Pinci, naviglia col Po. Vai lontano, a Parigi sull'autostrada, Berlino in vetro. Che sognante questo buttafuoco. Beh, fantastico, un siciliano che vuole vabbè sganciare vabbè la Lombardia. Ricordate, Montanelli lo diceva sempre, perché Radeschi morì nel suo letto e morì nella sua Milano. E quando camminava per strada veniva riverito, omaggiato dai milanesi. Altro che, insomma, quella lagna sul Risorgimento. Cioè, vabbè, no, come la lagna? Stiamo scherzando, viva l'Italia Unita. Vi riporto alla realtà. Pensa alla grande, sii ottimista. Non dare mai segni di debolezza. Mira sempre dritto alla gola. Compra poco e vendi a molto. La paura è un problema che non ti riguarda. Una poltrona per due, la paura è un problema che non ti riguarda, soprattutto se giochi in borsa, perché se hai il panico poi ondata perdi, di vendite, perdi muori e così via, muori. Al contrario, sei troppo euforia, compri troppo e poi se va down è un problema. Vabbè, insomma, perché? Perché voglio tornare a Goldman Sachs. C'è la fissa su Goldman Sachs? Beh, è una cosa che va guardata sempre con grande lui attenzione. Lui è un demo plutocrate. Ma diciamolo ai nostri ascoltatori, non c'ha a casa Londra, ma... Insomma. Ma se la deve fare è Goldman Sachs, chissà che gli dà una mano. Va guardate sempre con grande attenzione, nel bene e nel male. Una rettifica, la casa a Londra c'è mio padre che vive a Londra. Lavora a Londra. È sulla via dello sfratto. Mamma mia, allora. È vero. No, perché Goldman Sachs? Perché è uno dei driver dell'innovazione, la finanza, l'altissima finanza e così via. Però c'è anche, insomma, sai quelli che a Davos discutevano di etica del capitalismo? Sì. È interessante perché Lloyd Blankfein, che è il capo di Goldman Sachs, ha aumentato la paghetta del 10%. Ancora? 23 milioni di dollari nel 2013. Evviva! Mix 24. Quindi posso farne ancora un'altra? Oggi dobbiamo recuperare una settimana di assenza, grazie, che non hai fatto niente. Allora, oggi sul Fatto Quotidiano troveranno i lettori una deliziosa intervista di Malcolm Pagani a Rocco Siffredi a proposito della questione di sesso, bugie, scontrini, la perversione della politica, le questioni lì in Abruzzo. Ma c'è un punto che vorrei sottolineare. Quando Rocco Siffredi analizza il dettaglio dei 300 euro e dice: Berlusconi ci avrebbe risparmiato il particolare miserabile, i 300 euro. Rispetto a certi abissi, Berlusconi, dice Rocco Siffredi, si è comportato con un'assoluta signorilità e svela il perché. C'è una simpatia perché l'hanno descritto come il principe dei perversi, ma francamente, dice Rocco Siffredi, una star del porno, non credo abbia fatto così male, e ripete l'invito che ha già fatto al presidente Berlusconi, come lo chiamano i fedelissimi, quello di fare un film insieme. Secondo me lo faranno e vorrei a questo punto a far ascoltare la canzone delle canzoni dedicate a Rocco Siffredi da un grande Giorgio Conte. Rocco, come stai? Rocco, come fai? Rocco, cosa prendi? Tu che tieni? Simonelli. Intendi? Dammi una risposta. Professor Simonelli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno dopo Rocco Siffredi, Simonelli. Simonelli. Posso dire una cosa? Dica, certo. Rocco Siffredi, poi parliamo di cose serie. Abbiamo poco tempo, in fretta. Rocco Siffredi ha anche un record, si è regalato la trasmissione televisiva più noiosa del decennio. Quindi insomma, io su questo film speriamo che non sia come la trasmissione televisiva, che sennò... Il canone dov'era ieri, professore? Il giovedì è una serata particolare, perché ci sono due Italie. C'è Don Matteo che, come lei sa, spopola e ci presenta quest'Italia in cui è possibile la mediazione, la conciliazione, la soluzione dei problemi. Una speranza, sì. Poi uno, va sulla 7 e trova, al di là di ogni cosa, un'Italia che è inconciliabile, in cui le posizioni sono inconciliabili, in cui le due verità o le due falsificazioni, insomma, non trovano nessuna. Il canone dov'è? Il canone chi lo sa dov'è tra queste due? Questo sa che non glielo posso dire, non lo so. Se perché contano i numeri, si sa. I numeri dicono che è là. Allora, sa cosa ho fatto io ieri sera per evitare questo dilemma? Le assaltate tutte e due? No, ho fatto un'altra cosa. Oggi è una giornata importantissima. 31 gennaio. Che cosa finisce oggi? Finisce il calciomercato. Ah. Finisce il calciomercato. 30 secondi, professore. Allora è speciale calciomercato di Sky Sport. È un programma delizioso perché è riuscito a fare spettacolo attorno ad una cosa che è invisibile. Le trattative sono per natura invisibili. Ma fantastico. E questi sono riusciti a rappresentare, a mettere in scena le trattative, i luoghi segreti delle trattative, in cui non possono entrare ma si dimostrano da fuori. È una cosa hitchcockiana, meravigliosa. Grazie professore, domani su Rai 3 parte un programma che potrebbe essere interessante, si chiama Stelle Nere di Marco Marra e Sara Tardelli l'ha intervistato. Marco Marra, conduttore e ideatore di Stelle Nere. Marco, ma che programma è? Di che cosa parla? Intanto diciamo che si inserisce nella tradizione crime di Rai 3, ma è un prodotto nuovo per tanti versi. Che linguaggio avete usato per raccontare queste 6 storie che andranno in onda? Abbiamo fatto una sorta di distillato delle storie di cronaca, dei fatti di cronaca, e le abbiamo fatte diventare racconto, direi quasi racconto puro, perché comunque il testo ha una sua consistenza, è una sua autonomia che può tranquillamente vivere a prescindere dall'ausilio che invece ha attraverso la televisione. Noi ci siamo divertiti a scriverla. Molto teatrale, no? E Michele Alberico anche, che mi ha aiutato nella scrittura. Teatrale perché è una sorta di monologo che faccio. Voi avete usato proprio anche delle tecniche un po' nuove. Sì, la graphic novel. La graphic novel resa attraverso lo strumento dello studio virtuale. Devi tener conto, Sara, lo sai benissimo, che gli studi virtuali in realtà vengono usati semplicemente per supplire alle deficienze delle scenografie degli studi veri. Noi invece abbiamo cercato di utilizzare e di mettere a frutto la specificità del mezzo dello studio virtuale. Certo. Abbiamo pigiato l'acceleratore. E questo è stato possibile anche attraverso una grandissima squadra di tecnici. Questo è un prodotto che è stato realizzato completamente grazie internamente anche alle Rai. Sì, sì, di questo sono fiero. Quanto avete dovuto studiare queste 6 storie che andranno in onda su Rai 3 per poi riuscire a elaborare il racconto? Mi dai l'agio per dir questo. Come tu sai bene, io e anche Michele veniamo da una formazione anche di documentaristi, quindi sì, di attenti al vero, quindi ci si documenta, ma non basta. Qui diciamo la linea del documentario, della passione del vero, incrocia anche quella dell'immaginazione. Laddove non arriva il documento, arriva la forza suggestiva del disegno. Qual è il filo rosso che accomuna queste storie, secondo te? Sono persone che in qualche modo hanno subito un danno in qualche punto della loro esistenza. E questo danno, l'eco di questo danno, alla fine ha portato al fattaccio. Invece, visto che insomma hai visto tanti lati oscuri, no, delle persone dovendoli raccontare al pubblico, c'è qualcosa che ti ha colpito particolarmente? La puntata domani sera è una storia che ha anche segnato il costume italiano, perché è il primo delitto a sfondo sessuale che ha avuto così tanto inchiostro dedicato. Marchese Camillo, sì, casa di stampa di Soncino, e la moglie Anna Fallarino. Questa coppia protagonista del jet set italiano e internazionale. Quanto è importante sperimentare nuovi prodotti televisivi? Tantissimo. Io ho avuto modo di lavorare con Giovanni per oltre 10 anni e di anche assaggiarne la generosità. E grazie a questa generosità che forse vive anche oggi Stelle Nere. E il nucleo originario di Stelle Nere è proprio una puntata zero che Minoli, dentro al gruppo di 150, mi ha permesso di realizzare. È stato questo nucleo che Rai 3, nella persona di Vianello, un'altra persona straordinaria, che io ho visto credo una volta e mezza e ha detto vai, insomma, grazie a loro comincia questa avventura. Ci tenevo a dirlo. Grazie, in bocca al lupo. A voi. Grazie. Facciamo tanti auguri a Marco Marra. Oggi la storia, curata come sempre da Marina Milone, racconta di una ragazza, Rita Atria, una ragazza siciliana che si ribella alla cultura mafiosa della sua famiglia e si confessa a Paolo Borsellino, ma quando Paolo Borsellino muore, poco dopo si suicida.